ti guardo sembri stanca ancora, se ti guardo troppe sfide che rotolando infrangono su di me, sui pensieri miei. Se mi guardi tu mi accendi ancora, se mi guardi abbasso gli occhi e trattengo l'antitesi verso te, che ti sfiorano lampi accesi che strofe recitano ormai, dei buffoni in disarmo in un circo vuoto, reciti amica mia se vuoi ti puoi fermare, sono stanco anch'io, la scena qui si chiude, si chiude, si chiude. Stavo scalando pareti dure da affrontare, io che vivo solo, digno mi fate d'acqua pura, cerco di nuovo il sole, il suo tiepido calore scalda e nuova linfa mi dà, e tu sei qui ancora smagliante di fronte a questo sole che mi scalda sotto un cielo brillante per noi che ci amiamo qui. Voli via per non vedermi allora, voli via per togliere il tuo sguardo che ricade su di me, sui pensieri miei, sguardo chiaro che se veloce va lontano per vedere campi incolti lasciati in mano al tempo. C'eri tu amica mia e dicevi che passava troppo tempo ancora per la nostra storia e la noia è finita. Stavo scalando pareti dure da affrontare, io che vivo solo, digno mi fate d'acqua pura, cerco di nuovo il sole, il suo tiepido calore scalda e nuova linfa mi dà, e tu sei qui ancora smagliante di fronte a questo sole che mi scalda sotto un cielo brillante per noi che ci amiamo qui.